Sono le 15.34, ricominciano le dirette su Radio Blackout. Ilaria Daniela ai microfoni, un pochino in anticipo rispetto al solito orario delle 4 di interferenze. Oggi copriamo un pochino questo buco della bobina, salutiamo con un abbraccio Snoopy che ci ascolta da casa e insomma... Vi mandiamo due selezioni che ha scelto lui apposta per voi, per insomma gli ascoltatori e le ascoltatrici affezionate di Drink and Fight. Questa è Paddy and the Reds, The Captain's Dead. Facciamo ascoltare ancora una selezione sempre da Drink and Fight, che tornerà domenica prossima dalle sempre al solito orario per insomma tenervi compagnia con la musica irlandese. Buon ascolto. Un attimino di problemi tecnici quest'oggi con il fatto che siamo in anticipo, stiamo cercando di contravvenire diciamo alle ai problemi che in questo momento anche la bobina ci sta dando. Sì! Eccoci, torniamo in diretta, problemi tecnici momentaneamente risolti, quindi vi facciamo ascoltare Rocky Road to Dublin, che è questa selezione proposta da Drink and Fight. Siete in ascolto del 105-250 Radio Blackout. In the merry month of June, from me home I started, left the girls so soon, to nearly broken hearted, to load it for the dear. Kiss me darling, mother drank a pint of beer, me grief and tears, and smother than not to eat the corn, fever I was born, got a thousand corns, a band of ghosts and gun in a brand new pair of bras, settling over the boss, frightening all the dogs upon the rocky road to Dublin, one, two, three, four, five, hunt the hare and turn it down the rocky road, and all the way to Dublin, prep for Lalia. And my girl at night, just so weary, started by the light, and morning ride, and early took a cup of the pure, to beat me hard, thinking that's a patty stew, whenever he took the finger to see the last smile, snapping all the while, at the pure style, it set the heart of bumming the act, if I was hard, it was as I required, I was almost tired of the rocky road to Dublin, one, two, three, four, five, one, two, three, turn me down the rocky road, and all the way to Dublin. I was a flower growing wild and bright, but it's such a pity to be so soon to cry for you. And the man that took the throne, all among the quality born. I was a flower growing wild and bright, and all it's something got in mind. When I look behind the wonder that I find upon me, I wanted to inquire for the love, and let me come abroad. There was a marching board upon the rock to go to Dublin, a one, two, three, four, five, down. And here it turned it down the rocky road, and all the way to Dublin, left the land. Mary got away, Missouri's never famous, landed on the cage of that the ship, we're filling the captain every word, the total happy when I jumped aboard a cabin from the money, down among the pigs, that's the funny thing, but even hardy rings the water on the bowling, when the holy head, we E quindi per quest'oggi cominciamo con decisamente largo anticipo, cercando di tenervi compagnia fino alle 4, quando entreremo nel vivo della trasmissione con i contenuti insomma abituali della trasmissione di Interferenze. Quest'oggi la selezione musicale è un pochino particolare, invece di fare la scelta come abbiamo tenuto nelle ultime puntate da un po' di mesi a questa parte di portarvi a conoscere un artista, un gruppo musicale, in particolar modo gruppi che avessero vocalist o comunque cantanti donne, quest'oggi la nostra selezione è andata un pochino più a spaziare verso altri campi artistici. Vi proporremo per questa oretta e mezza in nostra compagnia infatti delle selezioni di pezzi musicali tratti da colonne sonore di film e insomma vi invitiamo anche se avete qualche suggerimento in corso di trasmissione a inviarcelo e se insomma se lo troviamo lo manderemo volentieri. Questa intanto è la selezione che proponiamo noi. Vai là con il primo pezzo. Ecco, il primo pezzo è tratto da uno dei film insomma musicali più interessanti dal mio punto di vista, Cadillac Record, film del 2008, che vede la partecipazione di Beyoncé, tra le altre, con dei pezzi molto molto belli, e, con, in realtà Beyoncé interpreta Etta James, insomma che è un personaggio di un certo rilievo, e questo pezzo è di Mos Def ed è Nadine. Yeah. era appunto il pezzo Nadine, tratto dalla colonna sonora del film Cadillac Record. E per darvi un po' i riferimenti per Radio Blackout, insomma, contattateci quest'oggi, dateci suggerimenti per le colonne sonore che avete voglia di ascoltare, ma chiaramente intervenite anche per tutto quello che riguarda la trasmissione, i contenuti che tra un po' conseguiranno a questa prima iniziale selezione musicale. Vi lascio anche insomma un po' in sospeso, perché quest'oggi, vista la scelta che abbiamo fatto rispetto a quello che vi facciamo ascoltare, vi sveleremo anche il perché e l'origine della sigla di Interferenze. Quindi contatti telefonici, subito, veloci, il telefono cellulare per mandare messaggini, 346-6673-263, il telefono fisso di Radio Blackout per squillini, dirette e quant'altro, notizie dell'ultima ora, qualsiasi cosa succeda in città e dintorni, 011-2495-669. Rimanendo in tema, insomma, rimanendo un po' nel periodo, vi diamo un assaggio di Nina Simone, Sinnerman. diretta qui su, e ci arriva una telefonata in diretta qui sui 105-250 di Radio Blackout e alcuni messaggi che segnalano la presenza di alcuni fascistelli davanti alla lapide delle foibe in corso Cincinnato, oltre al fatto che chiaramente ci sono i compagni nel quartiere che stanno un po' seguendo i loro spostamenti, perché ricordiamo che oggi si tiene un presidio antifascista sempre nello stesso quartiere in Piazza Nazario Sauro, presidio che è stato indetto dall'AMPI per non lasciare appunto alcuno spazio ai fascisti che tentano di fare una strumentalizzazione di quella che è una giornata che storicamente senz'altro non gli appartiene. E quindi insomma invitiamo chi fosse all'ascolto e che vedesse quello che succede, o comunque chi fosse fortunatamente disposto ad andare al presidio dell'AMPI, insomma, di stare sintonizzato su Radio Blackout, informare la radio di quello che succede. Insomma, noi come sempre teniamo i microfoni e i telefoni aperti per le informazioni della città. Continuiamo con la selezione dalle nostre colonne sonore preferite, sempre dal film Cali Black Record. Come prima vi dicevo, Beyoncé ha avuto una partecipazione in questo film. Credo che, nonostante insomma, la figura non troppo interessante di Beyoncé, la sua espressione musicale è stata particolarmente ascoltabile, direi, se non proprio bella, dentro questo film. Sarà anche complice il fatto che interpretava un personaggio decisamente di interesse come Etta James, e quindi questa è l'interpretazione di Beyoncé di All I Could Do Is Cry. Nel frattempo, durante il pezzo musicale, noi cercheremo senz'altro di metterci in comunicazione con i compagni che sono al presidio indetto dall'AMPI per darvi poi maggiori informazioni. Buon ascolto su 105-250. Oh, Come vi dicevamo qualche secondo fa, prima di mandarvi la canzone che avete appena ascoltato, abbiamo contattato direttamente i compagni che si trovano al presidio in questo momento in zona Lucento, perché insomma con tutti i messaggi, insomma, data l'importanza della giornata e data anche l'importanza di stare insomma per strada e di riprendersi le strade nel giorno in cui fascisti di tutte le età, colori, eccetera, pensano di potersi dare via libera nella nostra città, e quindi insomma abbiamo in linea Francesca che ci può fare un attimo una cronaca di quello che sta succedendo. Francesca, sei in linea? Sì, sono in linea, un saluto a tutte e a tutti. Sì, in questo momento mi trovo al presidio organizzato dall'AMPI, il presidio che insomma già da settimane era stato insomma organizzato e costruito con le realtà antifasciste torinesi. La partecipazione è ottima, continua ad arrivare gente e quindi è già un primo ottimo risultato. Sappiamo che è sempre difficile insomma in questo periodo riuscire a portare tanta gente in piazza, ma insomma la giornata di oggi e anche insomma le notizie che sono arrivate negli scorsi giorni, sia della fiaccolata che si sarà in serata organizzata da Casa Found, sia insomma i soliti quattro pagliacci di Fuan o Fratelli d'Italia che siano, che avevano indetto questo contropresidio, hanno insomma fatto in modo che la presenza qui sia buona, come dicevo prima. Ci arrivano insomma voci che questo contropresidio organizzato sono veramente in 20 persone, ed è anche questo un risultato che da un lato chiaramente chi organizza le cose già ce l'aspettavamo, perché sappiamo bene chi sono, ma da insomma un'altra nota positiva di questa giornata, la polizia si è schierata in forza, quindi credo che chi arrivi qua, magari poi chiama in radio per dire, è veramente esagerata, proprio perché il presidio di oggi era proprio caratterizzato anche per parlare al quartiere. Siamo in mezzo ai palazzi e quindi molti si affacciano, vengono, scendono, e si vuole insomma spiegare la giornata di oggi, perché anche nei giorni scorsi Casa Found aveva insomma volantinato casa per casa la loro fiaccolata, che vuole ricordare appunto i martiri delle foibe, senza voler insomma analizzare realmente quello che è stato, perché senza insomma voler ricordare quello che hanno fatto i fascisti in quella zona, che non è appunto martiri insomma di un certo tipo, che si sono comportati in un certo modo. È stata la ribellione, la resistenza di un popolo, come è stato qua allo stesso modo dall'altra parte. Quindi insomma la volontà di stare qua, continuare a stare qua insomma in tutto il pomeriggio, proprio per insomma dare modo di capire anche alle persone che camminano e che girano questo quartiere che la presenza antifascista c'è, non è solo in centro ma anche appunto in questa periferia, proprio perché per non lasciare spazio solo ai fascisti, che probabilmente anche questa sera saranno i soliti quattro gatti come negli anni passati, quindi non hanno attecchito in nessun modo. Invece questo presidio sta gonfiando ed è proprio bello vedere che la gente arriva proprio anche dai palazzi e dalle strade intorno, si ferma, chiede, e insomma questo è per me un'altra nota molto positiva di questa giornata. Invito tutti e tutte a raggiungerci. Le strade sono aperte, anche se appunto si vedono parecchie camionette, quindi noi siamo qua. Francesca, volevo chiederti proprio questo, se puoi magari dare le coordinate per raggiungervi. Siamo in piazza Nazario Sauro, che con i pullman è raggiungibile o con la linea del 3 o con il 2, e comunque le strade appunto, anche se sembrano chiuse, c'è modo di raggiungere anche in macchina. E la zona è tra Corso Lombardia e quindi è tutto insomma abbastanza aperto, ci si può muovere. È importante essere qua in questa giornata, proprio perché si dà questa risposta in un quartiere periferico che comunque molto spesso non è non è facile sempre toccare ed è un'occasione per parlare sia di antifascismo ma poi per relazionarsi proprio con un quartiere che purtroppo per la distanza magari a volte dal centro è meno, si entra meno in contatto. Sì, mi sembra importante quello che dicevi tu prima, di non lasciare spazio appunto ad alcuna strumentalizzazione, ad alcun revisionismo storico, per questo la presenza dei compagni e delle compagne mi sembra quanto mai fondamentale. Noi ti ringraziamo e ti chiediamo appunto in qualunque momento tu ritenessi insomma di farsi sapere, di farti sentire, i microfoni sono aperti perché insomma continuano le trasmissioni in diretta, per cui in qualsiasi momento potete intervenire e raccontarci quello perfetto. Che sta succedendo, come sta proseguendo. Adesso ti salutiamo insomma e con questo invito a farti risentire in qualunque momento. Ancora un saluto a tutte e a tutti, come sempre ora è sempre resistenza. Ciao Fra, ciao. Ciao. Ciao. E quindi come dicevo prima, ormai il tempo di interferenze è giunto, le 4 sono scoccate da qualche minuto, appunto vi anticipavo che quest'oggi vi racconteremo il perché della scelta della nostra sigla. Come avrete potuto sentire nelle domeniche da ormai più di un anno, abbiamo scelto questa canzone, La ragazza con la pistola, tratta dalla colonna sonora dal punto del film La ragazza con la pistola, film del 1968 di Monicelli, tra gli interpreti una insomma interprete molto di spicco soprattutto per la sua capacità recitativa in questo film, Monica Vitti. Divertentissima Monica Vitti, che insomma offre un'interpretazione davvero fantastica in questo film, che consigliamo a tutti e a tutte di vedere se non l'aveste già fatto. È davvero un film molto divertente e soprattutto molto avanti per gli anni in cui fu girato. Questa è La ragazza con la pistola, sigla abituale di Interferenze, ve la facciamo ascoltare subito. Sono le 4:10, comincia Interferenze come al solito, occupando la domenica pomeriggio dai microfoni di Radio Blackout. Insomma, quest'oggi entriamo subito nel vivo della trasmissione, che chiaramente sarà flessibile per dare rilievo all'appuntamento di piazza, come dicevamo poc'anzi, però insomma la nostra intenzione è quella di dedicarci ad una rassegna stampa che in parte prevederà notizie dall'estero che hanno interessato recentemente le cronache, mentre invece per una parte saranno più concentrate sull'Italia, e poi daremo un aggiornamento in diretta su quello che è stata la mobilitazione torinese ieri degli operatori sociali che sono scesi in piazza. Faremo insomma due considerazioni un po' sulla giornata, ma anche un po' sul contesto più generale di mobilitazione in cui questa iniziativa si è andata ad inserire. E quindi chiuderemo con una lettura, insomma vi lasciamo un po' di suspense per non raccontarvi tutto quello che ci sarà in questa puntata. Cambiamo quindi film, cambiamo genere, cambiamo anche anni. Questo è una canzone tratta dalla colonna sonora di un altro grandissimo film che ancora vi consigliamo, che è I Love Radio Rock, di cui vi diremo qualcosa di più tra poco. Questa è Sunny Afternoon, dedicata alla domenica pomeriggio. The text has taken all my soul and left me in my lazy home, blazing on the sunny afternoon. I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this grief. I got a big fat mama trying to break. So pleasantly live this life of luxury, blazing on the sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom and pop, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cool beer, blazing on the sunny afternoon. Andiamo a leggervi un messaggio che ci è arrivato di un ascoltatore che dice: sono antifascista ma anche istriano, le foibe sono un crimine, non sono resistenza, fate attenzione a non strumentalizzare anche voi. Insomma, noi quello che ci sentiamo di dire in questa giornata è di ribadire l'importanza di non lasciare spazio sul territorio a gruppuscoli fascisti che non aspettano altro che davvero un'occasione per strumentalizzare una qualsiasi cosa, per davvero crearsi un momento di visibilità e di legittimità che su questa città non hanno mai avuto e non avranno mai. Questo ci sembra davvero importante ribadire, per cui davvero insomma capiamo la considerazione, eccetera, ci va sicuramente appunto di leggerlo e capiamo le ragioni che sicuramente hanno mosso questo ascoltatore che ci ha scritto, però insomma ci sembra davvero importante ribadire semplicemente che non c'è spazio per questi fascisti e che insomma ci sembra quanto mai importante che l'Ampi abbia indotto questo presidio per ribadire dirlo e per ribadire la legittimità degli antifascisti che sono sempre nelle strade, sempre lo saranno finché ci saranno fascisti in questa città. Partiamo quindi con le notizie della nostra rassegna stampa della settimana. Diamo spazio più che una notizia di cronaca a un piccolo momento di approfondimento che ci dà lo spunto a partire da una trasmissione del martedì di Radio Onda Rossa, martedì autogestito da femministe e lesbiche, che dà sicuramente un sacco di spunti di interessante approfondimento. In questo caso si tratta di un'intervista a uno dei familiari di un ragazzo tunisino scomparso. Il fenomeno dei migranti che arrivano in Italia e che scompaiono per le famiglie è un fenomeno molto diffuso, a partire insomma dal completo anonimato che una persona che vive nella clandestinità deve mantenere all'interno di un paese come l'Italia, all'interno delle frontiere di questa Europa così rinchiusa in se stessa. Lascio spazio alle parole di questa donna tunisina, insomma, che può dare il peso di quanto questa ricerca, di quanto questa separazione con i familiari sia uno dei pezzi delle tragedie umane che riguardano le varie leggi securitarie, insomma, le conseguenze di queste leggi securitarie. Con noi in studio un ospite per parlare della vicenda dei tunisini scomparsi, ora mi correggerai sul cognome, Rebecca Krayem, sì, dell'Associazione Giuseppe Verdi di Parma. E intanto, vabbè, Rebecca si trova qui per dirci che domani ci sarà un presidio sulla vicenda dei tunisini scomparsi. E allora torniamo in diretta e abbiamo qui con ci sarà un presidio sulla vicenda dei tunisini scomparsi a Montecitorio dalle 10 alle 14. Noi abbiamo seguito insomma questa vicenda anche tutto l'anno scorso con collegamenti costanti con le compagne di Milano delle 2511 che appunto hanno aderito a questa campagna. E oggi siamo invece qui con Rebecca intorno ovviamente a questa vicenda dei circa 850 tunisini scomparsi. Si muovono appunto diverse associazioni, diversi gruppi, poi lo ricorderemo, ci sono anche in Italia dei gruppi di familiari ormai da più di un anno, no? da 13 mesi si trovano anche proprio qui a Roma dei gruppi di familiari, ed è una campagna che si svolge sia in Italia che in Tunisia. Intanto Rebecca, se ti va di raccontare tu appunto come hai iniziato a seguire, tu sei originaria della Tunisia, vivi in Italia, mi dicevi, da tanti anni, ovviamente com'è che stai seguendo questa campagna, ti ha coinvolto in che modo, la segui dall'inizio? Prima buonasera a tutti gli ascoltatori di questo radio che ci ospita stasera. E questo percorso li ho cominciato dal giorno 20 marzo del 2011, quando le prime mamme mi hanno chiesto, pensavano che i loro ragazzi arrivati si trovano così facilmente, e invece da adesso quasi 2 anni siamo ancora nel punto fermo, non siamo mossi neanche una virgola. Li stiamo ancora cercando, abbiamo le registrazioni di TG5 e TG3 che i nostri ragazzi hanno sbarcato a Lampedusa, abbiamo le testimonianze che sono vivi, ma dal momento non abbiamo mai più sentito una notizia di loro. Cioè sono spariti nel nulla, ecco, spieghiamo, sappiamo che non fanno parte dei dispersi di cui di solito, ma a volte quando insomma escono delle liste, sono letteralmente spariti nel nulla, temiamo in uno dei circuiti del percorso confinato dei migranti tra una frontiera e l'altra. E sono appunto circa 850, sì. E voi avete quindi visionato anche del materiale video e sono stati riconosciuti in Italia, insomma, sì, che sono proprio sbarcati in Italia. E da allora non, voi siete anche entrate dentro alcuni CIE, no? Io sono entrata in due CIE, uno di Torino e l'altro di Bologna. Abbiamo trovato gli intrecci delle nostre ragazze, degli altri compagni che erano con loro, ma da Trapani, come si chiama? Mazara del Vallo. Dalle centri di Trapani, non so, Agrigento, di Agrigento, da lì sono. Scomparsi quelli che li abbiamo trovati, dicono sì, li abbiamo visti, erano con noi e dopo non lo sappiamo dove li hanno trasferiti. Quindi la traccia CIE, i loro ragazzi sono stati visti qua in Italia nelle CIE. Quindi a maggior ragione voi, le famiglie anche stanno rimanendo insomma qui in Italia, perché si pensa che comunque è l'ultima paese dove sono stati visti. Poi, e quindi sì, avete fatto anche una cosa che non è tanto facile, entrare sì. Nei CIE, nei CPT, ricordiamo, sì. L'avevamo seguita, insomma è una... insomma non è veramente facile riuscire a entrare, quindi avete insistito diciamo parecchio. E poi c'è tutto un altro versante legato a questa ricerca, che era la richiesta delle impronte digitali, impronte che noi sappiamo vengono usate ovviamente dai governi per controllare, anche in buona parte reprimere questi movimenti. Voi però le avete richieste per trovare questi ragazzi dispersi, e ovviamente sono stati grossi problemi per ottenerle. A che punto è questa? La prima volta le abbiamo chiesto in aprile 2011, con la richiesta del nostro avvocato di portare queste impronte digitali dalla Tunisia. Il primo momento il nostro governo ha detto sì, ve le do. Dopo abbiamo scoperto che non erano veri, erano di altre genti che a noi non ci importa, perché di gente di altri 10 anni prima di noi. Ultimamente abbiamo la nostra sorella, la Maria Mamenauer, è una ragazza combattente che si è riuscita, attraverso le sue conoscenze, di avere queste impronte, li ha portate questa settimana qua in Italia e aspettiamo il risultato fra un po'. Invece direttamente dal nostro governo abbiamo i muri chiusi, tutti i porti, tutto murato. Si sa, i governi poi del resto nelle politiche migratorie collaborano molto, quindi sappiamo che dire di quello italiano, insomma. Però è interessante che comunque è venuto fuori che anche sono più di 10 anni, quindi che persone scompaiono nel nulla, insomma uscendo dai loro paesi. E quindi voi insomma siete qui insieme ai familiari dei ragazzi, qui abbiamo insomma anche qualche altro ospite che ci ha accompagnato, e c'è questo presidio, lo ricordiamo, domani alle 10 del mattino sotto Montecitorio fino alle 14. Bene, e vogliamo sensibilizzare le genti di venire da noi a darci la loro testimonianza, per fare rompere questo muro della Tunisia, che deve dire sì, vado a cercare i miei figli. Quando vedono gli italiani stanno muovendo, loro possono rendere ragione che noi vogliamo i nostri figli, sappiamo che sono vivi, sappiamo che sono qua in Italia. L'unico nostro problema è che siamo certi che i nostri ragazzi hanno dato il nome falso. Per quello l'Italia non ha potuto, quando noi gli daremo i materiali, noi li daremo con i nostri nomi veri, invece i nostri ragazzi sono sotto altri nomi, sotto altre generalità, per quello qua in Italia si trova difficoltà da dimostrare che quelli possono arrivare da loro. Se noi faremo queste campagne, faremo questi presidi, così il nostro governo si impegna a risolvere questo problema, perché da lì non vogliono muoversi. Anche in Tunisia si mobilitano. Sì, no? Domani temporanei, sì, qua in Italia, sì, in Tunisia abbiamo due presidi per dire rompete questo silenzio, vogliamo i nostri figli, perché siamo stanchi, stufi, tutte le mamme vogliono i loro figli a braccia e vogliono farli tornare a casa loro. E certo, almeno sapere dove si trovano. Sì. Noi continueremo ovviamente a parlare di questa vicenda che appunto ci sembra inquietante, ma insomma anche proprio per capire come funzionano le politiche migratorie, e ai noi sappiamo che insomma appunto si tratta proprio di percorsi confinati nei quali è molto, ai noi, facile, ecco, sparire nel nulla. Speriamo che queste mobilitazioni diano delle risposte. E voi state anche cercando, comunque, visto avete fatto anche degli appelli, per ricevere materiale fotografico o video, in modo da poter eventualmente anche in quel versante voi cercare insomma le persone scomparse. Allora, lo ricordiamo, domani a Montecitorio dalle 10 alle 14 un presidio in contemporanea anche in Tunisia, e continueremo a aggiornare su questa vicenda. Scusi, posso? Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Un ascoltatore e un'ascoltatrice ci segnalano in direzione del presidio un'auto della Digos ferma per controllo dei documenti, e insomma ci segnala la targa, dice una punto rossa EP003 oppure una punto blu. Vi rimandiamo l'informazione. Rimaniamo sempre in Tunisia, che questa settimana insomma ha fatto molto parlare di lei per insomma tutta la mobilitazione serrata che si è data, insomma, specialmente in seguito alla morte di Belaid, questo compagno del Fronte Popolare. Poi subito dopo c'è stato lo sciopero generale, che ha visto una partecipazione di oltre 1,5 milioni di persone scendere in piazza, e sicuramente c'è molta rabbia, c'è la voglia di mandare via il regime e quant'altro, quindi secondo noi merita un approfondimento questa vicenda tunisina, per cui andremo poi a parlarvi anche di un'intervista alla compagna di Belaid che ci sembra interessante da diffondere. Tutto questo subito dopo il pezzo dei Public Enemy tratto dal film I Got Game, che penso tutti riconoscerete. In the middle of the universe, then why does this verse come to six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such words. Amongst the fiends controlled by the screen, what does it all mean, all this I'm seeing? Human beings screaming vocal javelin, sign of a local unraveling. My wandering got my wondering, with crisis and all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ice. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappeared. Nonsense perseveres, prayers list with fear. Beware, two triple O. It might feel good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game. We got game, they got game. We got game, it might feel good. It might sound a little something. The game, if it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, doesn't matter. Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murders and shooting. White men in suits don't have to jump. Still a thousand and one ways to lose with the shoot. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent, the corporate president. One out of 1 million residents, be a dissident, who ain't kissing it. The politics, the chains and whips, got the stick, missing chicks and all the championships. What love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense, perseverance, prayers, let's switch fear everywhere. Two triple O, it might feel good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game. We got game, they got game. He got game, it might feel good. It might sound a little something. The game, if it ain't saying nothing. Something happening here. What it is, ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Yeah, that's right. Telling me I've got to beware. Each time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. More than that, millennium just be killing them. That's scary, like a lie buried in a library. When did the state came to wreck anything? The piles of us still be catching the bus. With stacks of cash packed in laundry bags. Pay the preachers back, but where the teachers at? I ain't even gotta ask it. And who's underpaid that got filed at the basket? I can't blame the Indian who be getting all the binges and taking them grants for granted. Last I checked, pyramids wasn't built like projects or in them government checks. Modern day bucks ain't got no guts. Pardon the expression under governor nuts. Last time in the church be the last time in the church. Then pledge allegiance to CDs and movies. Leaving reality, believing fantasy. Leaving fatality, too many formalities. Prayers laced with fear, beware. 2000 is here. It might feel good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game. We got game, they got game. He got game, it might feel good. It might sound a little something. The game, if it ain't saying nothing. E come dicevamo, rimaniamo in Tunisia, dove insomma pochi giorni dall'uccisione di Belaid vi andiamo a parlare di un estratto di un'intervista a Besma, la compagna di Belaid, questo compagno ucciso. Lei insomma dando prova di grandissima forza e dignità a poche ore dall'uccisione insomma del suo compagno, è immediatamente scesa in piazza a fianco del popolo tunisino che chiede la cacciata del regime al grido appunto di Ennahda Degage. Lei durante in questa sua intervista ribadisce le responsabilità di Nadà nell'uccisione di suo marito per quella che è stata, diciamo, la sua attività politica, sicuramente scomoda, e si trova una traduzione dell'intervista sul sito di InfoOut, mentre invece la versione integrale si può trovare su RTL Suar, da dove è stata diffusa appunto un'intervista in cui lei accusa e fa delle precise appunto accusa di Nadà di avere delle precise responsabilità politiche, ribadisce l'importanza di continuare a scendere in piazza e nello stesso tempo comunque afferma di non rimpiangere assolutamente Ben Ali e dell'importanza del percorso che si sta facendo in Tunisia. Secondo noi appunto è molto importante, è da leggere, da diffondere. E, insomma, l'intervista si conclude, come ci sembra interessante ricordare, ribadendo che l'importanza di scendere per le strade rende anche meno vana, insomma, la morte di questo compagno, e appunto si chiude l'intervista dicendo ci saranno mille Belaid ogni volta che, insomma, qualche scagnozzo del regime porterà avanti qualche azione minatoria. Questa è la risposta degna e ferma del popolo tunisino. E insomma, adesso vi lasciamo con un altro pezzo musicale, sempre tratto dalla colonna sonora di I Love Radio Rock, film del 2009, scritto e diretto da Richard Curtis. La pellicola è interessante anche da diffondere dai microfoni di Radio Blackout, perché è dedicata al fenomeno delle radio pirate inglesi degli anni 60 e 70. Vi consigliamo veramente di guardarvelo. Questo è un immancabile pezzo di Jimi Hendrix, When Cries Mary. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers Mary. A broom is drearily sweeping of the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, Mary. The last, and the wind E ci spostiamo decisamente di contesto, torniamo insomma a parlare di Torino, di una manifestazione che c'è stata ieri, quella dei lavoratori del sociale, che ha visto scendere in piazza oltre un migliaio di persone, insomma, che protestavano contro i tagli che ingenti che hanno interessato il terzo settore, che tuttora appunto lo stanno interessando in maniera sempre più massiccia, a protestare contro i ritardi nei pagamenti da parte della committenza, nello specifico in particolar modo Comune, Regione e ASL, e più in generale insomma una critica forte verso il processo di dismissione sistematica che sta interessando appunto il terzo settore, che vede da una parte l'ingresso dei privati come la Fondazione San Paolo, che nella nostra città ricopre un ruolo sempre più importante, si propone come tappabuchi, con chiaramente tutte le implicazioni di classe, le implicazioni di ricatto che un ingresso di questo tipo può comportare, e dall'altra parte insomma le istituzioni caricano di peso e di responsabilità in maniera sempre più forte le famiglie, facendo leva sul welfare familistico, che diciamo è tipico del contesto italiano, e in questa maniera insomma sempre in maniera sempre più forte comunque vediamo le donne che sono costrette appunto a farsi carico di chi ne ha bisogno. Questo è un po' il contesto generale in cui si è inserita questa manifestazione, che arriva anche da un percorso di mobilitazione che lo scorso anno ha visto nascere un gruppo appunto auto-organizzato degli operatori sociali non dormienti, di cui Rocco, che abbiamo ai nostri microfoni, fa parte, a cui chiederemmo appunto alcune considerazioni sia sulla giornata di ieri sia appunto sul contesto di mobilitazione più in generale. Rocco, ci senti? Sì, ci sono, ciao a tutti, buona domenica soleggiata a quanto pare. Bene. Vi racconto qualcosa, cosa vi racconto? Della manifestazione di ieri. Sì, e anche un po' più in generale sul contesto, sì. Come vuoi tu. Ok, comunque parto dalla manifestazione di ieri, in realtà che è stata una manifestazione auto-organizzata, non dai non dormienti, nel senso che non dormienti hanno dato una mano e un contributo, dire, nell'organizzare e nel condividere anche i contenuti della manifestazione, che è stata una manifestazione a parer mio bella, forte, partecipata, perlomeno con tanti più operatori sociali che forse riescono in qualche modo a prendere coscienza di quello che sta realmente accadendo in questa città, in questa regione e non solo, insomma, forse a livello più generale. Come dire, quello che io mi aspettavo, come dire, era fortemente una partecipazione alta da cui poi poter partire e ripartire, come dire, per future presenti mobilitazioni e ragionamenti di lotta un po' più ampi, insomma. Come dire, per cui dal mio punto di vista è stata una manifestazione molto ben riuscita, prendendola per quello che è, ovvero una situazione, un evento in cui degli operatori si ritrovano, si rincontrano, cercano di raccontare qualcosa a questa città e a questa regione, e da cui però poi bisogna, come dire, rilanciare assolutamente in mobilitazioni che forse riguardino non solo più un piano generale, per cui un manifestarsi, un mostrarsi tutti insieme verso un qualcosa, ma che cominci a mostrarsi anche proprio nei luoghi di lavoro, nei quartieri, come dire, in quei posti dove poi chi subisce i tagli del welfare, come dire, è vittima massacrata da questo sistema in prima persona. Forse anche mi viene da dire a non prestarsi, diciamo, in prima persona a far fare, diciamo, la bella faccia comunque alle istituzioni che di loro non ci stanno mettendo la faccia nel dire che stanno compiendo questi tagli, visto che comunque effettivamente in un modo o nell'altro per adesso, a parte alcune eccezioni che già ci sono state, ovvero la chiusura di alcuni servizi o addirittura di alcune cooperative, in un modo o nell'altro con delle falle, con dei tamponi stanno continuando ad andare avanti. chiaro, ma a Torino, come dire, il gioco politico è continuare a dire, anzi, come dire, il nostro sindaco continua a mettere una faccia in cui lui è colui che, anzi, in una situazione di questo tipo riesce a preservare i servizi, poi però quando vai nel concreto e nel pratico, come dire, al di là della chiusura proprio che c'è stata di alcuni servizi, ripeto, fondamentali per minori, per persone con disabilità, per adulti in difficoltà, quindi per lui e per questa amministrazione non tagliare servizi vuol dire, faccio un esempio proprio pratico, che ne so, ad un bambino ad esempio maltrattato all'interno della propria famiglia, che da un punto di vista dovrebbe godere di una tutela sociale, non tagliare servizi vuol dire magari mettere un educatore per un'ora, due ore alla settimana nel verificare quello che succede a questo bimbo, a questo ragazzo, e dire in questo modo non ha tagliato servizi. In realtà è semplicemente una mossa, quindi è molto paracura, perché in un'ora, in due ore tu non riesci in realtà a tutelare nessun minore, ma su questo, come dire, possiamo sfidare chiunque a dimostrarci il contrario. Quello che sicuramente è in atto, come dire, è una, sono tutele che in generale per le persone, come dire, non ci sono più, nel senso vengono, quel minimo di tutela che veniva garantito fino a qualche anno fa non esiste più, come dire, ed è in atto su un piano molto più generale uno smantellamento di tutto quello di tutto quello che è stato un sistema di tutela, come dire, rispetto alle persone, dal mio punto di vista semplicemente perché le persone non interessano più, o perlomeno le persone diventano semplicemente oggetti da poter utilizzare per produrre denaro e potere rispetto ad alcune persone che da, come dire, tutto questo processo ci guadagnano e si avvantaggiano, insomma, sui loro folli poi progetti, voglio dire, dal mio punto di vista. E forse aggiungerei anche, come ad esempio questa settimana sempre nelle pagine di cronaca di Torino si riportava come un servizio di assistenza agli anziani abbia fatto pagare delle rette agli anziani e alle famiglie stesse, perché la committenza era fortemente in ritardo. Quindi forse aggiungerei che con questo si introduce davvero una sanità e un servizio sociale di classe, con le differenze tra chi può permetterselo e chi non può permetterselo, che a quel punto rimane o in casa, appunto, a farsi, diciamo, curare se ha degli affetti, e in particolar modo qui di nuovo si fa un discorso che ricade sulle donne, oppure invece di differenziale economico, per cui allora chi ha i soldi può aver diritto a servizi privati con standard qualitativi diversi, e insomma questa mi sembra un'apertura molto, molto problematica, molto pericolosa che comunque si sta dando. Si sta dando, sì, e che riguarda, come dire, un piano generale, un modello di società, come dire, che i poteri hanno in testa, che, ripeto, dal mio punto di vista è un modello sociale, come dire, che non tiene assolutamente conto delle necessità reali delle persone, come dire, tiene conto delle necessità, ripeto questo termine perché per me è così, folli, di alcuni gruppi di persone che pensano, come dire, che arricchendosi all'infinito o potendo manifestare un loro potere infinito sugli altri ci guadagnino qualcosa. Questo è il loro piano. Il problema, come dire, poi è nostro, come dire, la grande maggioranza della gente da questi piani folli non ci guadagna veramente nulla, se non una situazione sempre maggiore di schiavitù, di precarietà, di una vita non degna di essere vissuta in qualche modo. Io credo che invece riprendersi la propria vita, la propria esistenza, e lottare per quello e non farlo finire solo a se stessi, ma rilanciare, come dire, delle condizioni che siano anche per altri, come dire, è il minimo che una persona possa fare, come dire, proprio perché viviamo, campiamo 70, 80, 90, 100 anni e vogliamo campare nel modo migliore possibile, insomma. Va bene, senz'altro quello che dici è vero, e niente, noi da questi microfoni non possiamo che augurarci che questa mobilitazione continui, che si dia delle forme sempre più efficaci e di massa, e insomma qui noi saremo pronti con i microfoni a dare voce ad eventuali sviluppi. E vi rilancio solo un appuntamento. Certo. Che lunedì 18 febbraio, come dire, le varie facce, le varie persone, i vari gruppi che hanno avuto organizzato, come dire, il corteo di ieri, invitando e aprendo l'invito veramente a tutti, quindi rilanciano poi future mobilitazioni attraverso un'assemblea che faremo alle ore 21 di lunedì 18. Per informarvi seguite insomma soprattutto le pagine Facebook di manifestazioni, gli operatori sociali o quella dei non dormienti. Va bene Rocco, noi ti ringraziamo per l'aggiornamento. Grazie a voi, belle cose. Una buona giornata a te, ciao. Grazie, ciao. Quando mancano ormai 10 minuti e Interferenza si avvia la conclusione, vi facciamo ascoltare Patti Smith, questa è Rock and Roll Nigger tratta da Natural Born Killers. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Interferenze, puntata un pochino allungata ma comunque piena di contenuti. Vorrei ringraziare in maniera particolare un ascoltatore che ha preso spunto dai nostri suggerimenti musicali di quest'oggi per decidere di scaricarsi I Love Radio Rock, quindi salutiamo Mario e insomma invitiamo tutti quelli che volessero guardarsi questo film a scaricarselo, a scaricare anche gli gli altri suggerimenti di quest'oggi e in generale a scaricarsi i film, scaricarsi la musica, che non fa mai male. Chiudiamo dandovi un appuntamento per la prossima settimana sui microfoni, dai microfoni di Interferenze, scusate, per una diretta di approfondimento su un film documentario girato in India da un regista italiano, e vi diamo anche un po' di suspense perché prossimamente ci sarà la proiezione di questo documentario all'Università di Torino. Quando le date saranno stabilite vi daremo indicazioni più precise. Documentario che tratta di un fenomeno particolare di cui vi lasceremo poi insomma maggiori informazioni la settimana prossima. E chiudiamo insomma con un classico del cinema con cui non potevamo, insomma, non poteva essere altrimenti per quelli che sono i nostri gusti qui dagli studi di Via Cecchi, quindi insomma senza troppe presentazioni un pezzo tratto dalla colonna sonora di Pulp Fiction, e insomma buon ascolto. Dedicato a tutti quelli che non sono ancora andati a vedere Django. Girl, you'll be the woman soon. I love you so much, can't count on the ways, but that's what you're doing, all they can say. Keep that girl kind. When I get tired of pulling me down, and I never know when I come around, who I'm gonna find. Don't let them hold up your mind. Ok, alle 17 in punto, Ilaria Daniela.